stare prime e il borghese amministra. Poi dice che uno si butta a sinistra. Il figlio del borghese riempie le piazze del paese, ingrato, contestatore d'un benessere palese. Da Passannanti a Pinelli, le vite degli anarchici hanno epiloghi un po' strani. Se pensiamo a Sacco, a Vanzetti o a Carlo Giuliani. Da Passannanti a Pinelli, le vite degli anarchici hanno epiloghi un po' strani. Se pensiamo a Sacco, a Vanzetti o a Carlo Giuliani. E la lotta si fa più radicale una volta passato il 68. C'è chi entra nella P2 e chi esce con le P38. Qualcuno combatte con le idee e con la voce. Radio Out in Sicilia e a Bologna Radio Alice.